Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Il suo biberon l'ho fatto io, vai tu. Notte, ho avuto un incubo. Tutto cominciò alle 3 di notte. Cliff? Ah? Stai mangiando un sandwich con salsiccia? Tesoro, è tardi, continua a dormire. Eppure lo sai che un sandwich così fai fatica a digerirlo. La notte piccola che no. Com'è andata stanotte? Qualcuno o qualcosa ha disturbato il vostro sonno? Chi è stato? Chiamatemi 800 24 00 24. Qualcosa si può fare? Voi telefonate, il resto ci pensiamo noi, perché siamo in buone mani. Possiamo, come si dice, dormire sonni tranquilli. Ci aiuta oggi il professor Luigi Ferini Strambi, responsabile del Centro di Medicina del Sonno del San Raffaele Turro di Milano. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno Nicoletta. Professore, dormiamo sempre meno e sempre peggio. È il logorio della vita moderna, ma non solo. Ma certo, il logorio della vita moderna è questo. Noi sappiamo benissimo che negli ultimi 10 anni sono un po' cambiate le abitudini del nostro sonno. Dormiamo circa un'ora in meno rispetto a 10 anni fa, ma questo perché purtroppo, come diceva lei Nicoletta, il logorio della vita moderna, ci pigliamo sempre 50 impegni in più durante la giornata e quindi chiaramente rubiamo tempo al sonno. E la cosa poi importante è questa, che il risultato è che sicuramente oggi gli insonni veri, cioè quei soggetti che nonostante ci siano tutte le condizioni per dormire non riescono a dormire, sono aumentati sicuramente rispetto a 10 anni fa, ma sono aumentati soprattutto i privati di sonno, cioè i soggetti che o per necessità o anche per aspetti ludici preferiscono dormire di meno, e quindi non soltanto sono aumentati gli insonni, ma sono aumentati anche i privati di sonno. Oggi, il nostro hashtag di oggi è dimmi come dormi. Potete come sempre seguirci su Facebook, chiamarci al nostro numero verde 800 24 00 24, raccontare come abbiamo dormito, come non siamo riusciti a farlo. È quasi uno sport nazionale, una carta che ci giochiamo per giustificare il cattivo umore, la mancanza di concentrazione, uno sbadiglio che arriva nel momento meno adatto. Allora oggi, perché non approfittare di questa occasione per parlare del nostro sonno, di come dormiamo, di quanto dormiamo, se le ore che passiamo dormendo ci sembrano sufficienti, ci ristorano oppure non ci bastano mai. E direi di aggiungere anche come ci svegliamo. Professor Ferini Strambi, questo mi sembra un dettaglio importante. Sì, come ci sentiamo al mattino, diciamo così, al risveglio, perché in pratica quando uno dice quali sono le ore necessarie per dormire, la risposta la troviamo sicuramente al mattino quando ci svegliamo, perché se abbiamo dormito in maniera sufficiente sicuramente siamo ben pimpanti e pronti per affrontare la giornata. E allora ricordiamo una cosa importante ancora, che non è tanto magari le ore di sonno, ma a volte anche la qualità del nostro sonno. Basti pensare ai soggetti appunto che hanno un sonno disturbato, come ce l'hanno quelli che russano abitualmente, quelli che hanno le apnee, che dormono magari 7-8 ore, ma poi al mattino sono assolutamente, diciamo così, incapaci di affrontare bene la propria giornata. Questo perché ci sono stati tanti micro risvegli nel corso della notte e questi micro risvegli hanno comportato appunto un sonno molto molto frammentato e disturbato. Il problema non è solo ed esclusivamente legato al fatto appunto di non riuscire a far bene le proprie cose. C'è anche un altro aspetto che vorrei sempre sottolineare perché è importante, l'aspetto dell'irritabilità e della incapacità a controllare bene le emozioni durante la giornata. Cioè, in altri termini, se noi dormiamo male non riusciamo a inibire ad esempio determinati comportamenti, quindi diventiamo, diciamo così, un pochino più irascibili, più aggressivi nei confronti, esattamente. E questo oggi sappiamo perché durante la notte la parte anteriore del cervello, quelli che sono i lobi frontali, durante la notte si riposano questi lobi frontali sia durante il sonno profondo sia durante il sonno REM, cioè il sonno in cui sogniamo. Quindi questa cosa è molto importante proprio perché questa parte anteriore del cervello, questi lobi frontali, sono quelli che regolano poi anche, diciamo così, il nostro comportamento e controllano il nostro comportamento durante la giornata. Quindi quando perdiamo la pazienza, siamo particolarmente aggressivi, possiamo giocarci questa carta. Ho un lobo frontale... Ho un lobo frontale ancora stanco. Stanco, questo mi piace. Saluto la dottoressa Cinzia Castronovo, psicoterapeuta del Centro di Medicina del Sonno del San Raffaele. Buongiorno. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti. Ho messo insieme un neurologo e una psicoterapeuta. È una scelta non casuale, perché il medico di medicina del sonno, l'esperto a cui rivolgerci per inquadrare la nostra insonnia, e lui che ha le competenze mediche, gli strumenti diagnostici adeguati per arrivare a dare un nome al nostro disturbo e una causa alla cattiva qualità del nostro sonno, ma non sempre le soluzioni sono farmacologiche, e qui entra in scena la psicoterapeuta. Ormai tanti studi dimostrano che la terapia comportamentale cognitiva in molti casi ha risultati migliori dei farmaci. Si tratta di una terapia che tende un po' a mettere a punto, a correggere quei comportamenti, quegli atteggiamenti psicologici rispetto al sonno, che tendono poi a cronicizzare l'insonnia, a peggiorarla. È sicura, non ha effetti secondari, dottoressa Castronovo? Possono farla tutte? Ci vuole solo un po' di buona volontà? Assolutamente sì, i risultati direi che sono molto buoni. Il problema è proprio che i pazienti nel tempo, da più tempo hanno l'insonnia, più è come se ogni giorno si allenassero a dormire in quel modo, quindi male e con una cattiva qualità di sonno. Questo tipo di terapia permette al paziente di imparare quei comportamenti e quei pensieri giusti, che quindi gli permettono in un certo senso di reimparare a dormire in maniera corretta. Quindi questo è un po' il trucco e il segreto di questo trattamento. Ovviamente il trattamento funziona se il paziente poi a casa, oltre chiaramente a finire il trattamento, fa quello che bisogna fare. Altrimenti... fa quello che lei gli dice. Esatto. Se lo fa funziona benissimo, ovviamente se non lo fa i risultati non esistono. In quanto tempo si vedono i primi risultati? In brevissimo tempo, già in 2-3 settimane i nostri risultati dimostrano che i pazienti migliorano, e direi che nel giro di due mesi già raggiungono almeno il 60-70% dei loro obiettivi, quindi il trattamento dura 2 mesi, ma dopo il paziente a casa continua a migliorare, perché ormai da solo ha tutti gli strumenti per poterlo fare in maniera autonoma. Ci faccia assaggiare questa terapia cognitivo-comportamentale per aiutare le persone a disimparare a dormire male, no? A tornare a dormire sonni tranquilli. Qual è un esercizio che lei suggerisce, in modo che i nostri amici da casa possono capire che cosa li aspetta e possono chiamare per sottoporre il loro caso? Sono tutti, io dico che per trattare l'insonnia è come dover fare una torta. In questa torta devo mettere tutti gli ingredienti. Gli ingredienti sono alcuni comportamentali, come per esempio il rilassamento, una tecnica che si chiama controllo dello stimolo, che vuol dire fondamentalmente utilizzare il letto soltanto per dormire. Oggi sappiamo che soprattutto i giovani nel letto fanno di tutto, chattare, parlare al telefono, eccetera, quindi bisogna stare a letto solo quando si dorme. Quando si è svegli, alzarsi e allontanarsi dal letto, dalla camera da letto. Come delle tecniche cognitive, quali ristrutturazione cognitiva, tempo dei pensieri, eccetera. Questa del tempo dei pensieri vorrei tornarci, ma vado subito a salutare Marco da Padova e poi Paolo da Pordenone. Marco, buongiorno. Buongiorno a tutti quanti, molto piacere, salve. Eccoci qua. Allora, trasmissione puntata molto interessante. Io che per lavoro... Aspetti a dirlo, perché per adesso siamo in onda da 12 minuti, speriamo. Vi ascolto 12 ore al giorno, per cui insomma dai. Va bene Marco. Ci sono. No, allora io per lavoro faccio il rappresentante, quindi giro molto, mi capita tante volte di avere telefono aziendale, quello privato, il wifi sempre acceso in camera quando torno a casa da lavoro, quindi comunque tantissimi device accesi, e quindi mi capita tante volte di non riuscire a prendere sonno se mi addormento a una certa ora, quindi mi ci vuole tanto tempo. Addirittura tante volte mi capita di proprio sentire il desiderio di avere magari una fonte tipo la radio vicino a letto, per come un aiuto, per utilizzarlo come aiuto per prendere sonno. E questa, insomma, volevo capire quanto effettivamente può incidere sia sul sonno ma che sulla salute fondamentalmente. Allora, la radio è sempre salutare. Detto questo, passo la parola al professor Ferini Strambi, che spero non mi... No, la radio è sempre salutare, è vero Nicoletta, ma soprattutto la radio durante la giornata. La radio di notte, quando dormiamo, non è molto salutare. No, comunque, al di là della concentrazione sulla radio. No, il problema è molto semplice. Quando noi, come diceva l'ascoltatore, teniamo accese tutte queste cose che ci devono così creare questa condizione di connessione perenne, no? Con il mondo. Ecco, in realtà questa connessione perenne è qualcosa che è contraria a un buon sonno. Non soltanto si ha la difficoltà di addormentamento, ma poi anche il sonno che noi facciamo è un sonno comunque non profondo nella maniera giusta, perché tutte queste, diciamo, questa sorta di connessione crea anche una situazione particolare per cui il mio sistema di arousal, il mio sistema di veglia rimane sempre un po' allertato, e quindi non riesco a sprofondare assolutamente nel sonno con tranquillità. Cioè, quindi il problema è appunto questo, non soltanto un problema di addormentamento ma anche un problema di mantenimento del sonno. Ci sono studi che hanno dimostrato come infatti diminuisce la quota di sonno profondo quando noi teniamo le apparecchiature elettroniche varie intorno al nostro letto. La radio ad esempio, sì, può essere utile a volte perché mi rilassa e riesco in questa maniera magari a scivolare meglio nelle braccia di Morfeo. Però d'altro canto, se la radio poi non viene spenta e rimane accesa, il fatto di avere questa fonte di rumore che continua appunto ad esercitare un certo effetto sul mio cervello, il problema è proprio questo, perché non si arriva al sonno profondo, che è quello che è... Ma non soltanto il sonno profondo, ma che il sonno continua ad avere, il mio cervello continua ad avere delle oscillazioni, proprio perché il rumore crea queste oscillazioni periodiche che sicuramente non vogliono dire buon sonno. Dottoressa Castronovo, il problema è che spesso noi facciamo molta fatica a separarci da portatili. Purtroppo ci sono sempre più pazienti che hanno il problema del nostro ascoltatore, perché facciamo davvero fatica a staccarci da questa strumentazione elettronica. Purtroppo bisogna farlo. Infatti io ho molti pazienti che sono guariti, fra virgolette, dal problema semplicemente con questi suggerimenti: spegnere il PC e tutti i PC, perché l'intensità luminosa dello schermo del PC inibisce la produzione di melatonina, che è quell'ormone che ci fa dormire, e quindi non ci aiuta per niente. Quindi spegnere il PC almeno 2 ore prima dell'orario in cui vogliamo andare a dormire. In camera da letto non tenere mai né il cellulare né nessun altro apparecchio elettronico acceso, proprio per quello che diceva prima il professor Ferini Strambi. Se io ho il cellulare acceso, il mio cervello è sempre in una condizione di allerta. Suonerà o non suonerà? Invece bisogna spegnerlo. Se la radio piace al nostro paziente, la può ascoltare, però magari l'ascolti fuori dalla camera. L'ascolti dalle 11 a mezzogiorno, ad esempio. O anche magari mezz'ora prima di andare a dormire, ma non in camera da letto. La camera da letto deve essere un luogo dove io dormo. Il sonno è, io dico sempre, una zona protetta per il nostro riposo e recupero, che ci permette poi di stare bene il giorno dopo. Andiamo a Pordenone con Paolo, 800 24 00 24. Benvenuto, buongiorno. Buongiorno a voi. Io non so se quello che sto per dire può essere risolto, anzi penso sicuramente no. È più una questione di civiltà delle persone. Io dormo sempre fuori, praticamente in hotel. Questo lo faccio da dieci anni. E noto come sia gli hotel non tendano tanto a tutelare le persone che ci dormono, quindi voglio dire, a volte con scolaresche o con gruppi, non so, tipo russi, faccio un esempio, ma senza discriminare, che quando arrivano qua negli hotel fanno un casino, prendono l'albergo come se fosse casa loro, quindi è molto difficile dormire là. Persone tendono, magari quelli che non viaggiano abitualmente per lavoro, a tenere televisioni altissime. Quindi lei vuole fare un appello, Paolo? Sì, più che altro, allora quello faccia, non ho problemi particolari di sonno, ma è un qualcosa che c'è un'inciviltà veramente dilagante da questo punto di vista. Lei invita le persone che dormono in albergo di rispettare il sonno del vicino, soprattutto se le pareti sono sottili. È giusto? Sì, diciamo che c'è tanta gente che quando viaggia pochissimo, quella volta che lo fa veramente come se fosse a casa sua. Senta Paolo, proviamo, noi lanciamo questo appello, chissà, ci faccia sapere. Non, se... non credo venga raccolto. Comunque vi ringrazio. Proviamo, proviamo. Ricordatevi anche quando andate in albergo di rispettare il sonno del vostro vicino, talvolta proprio cambiando materasso. Professor Ferini Strambi, perdiamo sonno perché noi siamo abituati a dormire, tranne Paolo, sul nostro materasso, e cambiarlo ci crea sempre qualche problema, ma è normale. Sì, no, no, questo è normale. C'è anche da dire una cosa, però, che allora, innanzitutto, al di là di quella cosa che ci diceva l'ascoltatore, della poca attenzione che a volte in certi posti viene riservata ai clienti degli alberghi, però bisogna dire anche una cosa, che ci sono anche però alcuni alberghi dove c'è una particolare attenzione per quello che è il sonno. Ad esempio, ci sono gli alberghi dove si può scegliere tra diversi cuscini e quindi si può chiedere appunto alla reception di poter utilizzare magari cuscini diversi proprio in base a quelle che sono le proprie esigenze. Il fatto di comunque cambiare a volte può essere negativo, ma a volte può essere anche positivo, perché ad esempio ci sono i soggetti che soffrono di quel tipo particolare di insonnia che si chiama insonnia psicofisiologica o insonnia da condizionamento negativo, dove praticamente il cambiare il luogo dove si dorme, quindi cambiare anche stanza, cambiare anche materasso, può essere addirittura provvidenziale perché consente loro di dormire bene. Cioè, quindi a volte il cambiare non è sempre così negativo, insomma. E soprattutto quando noi troviamo un materasso che ci piace, in cui dormiamo bene, forse capiamo che è tempo di cambiare il nostro. Esattamente, esattamente. Dottoressa Castronovo, mi chiedono molti ascoltatori al 349-238-6666, ma come si fa a riprendere a dormire quando i problemi ti svegliano di notte? Domanda da mille punti, spesso nel cuore della notte ci siamo svegliati da un pensiero che si insinua lento lento e poi diventa un tormento nel corso della notte. In questi casi che cosa si può fare? Molti pazienti hanno un problema sia di addormentamento che di risveglio durante la notte, con difficoltà a addormentarsi perché hanno una serie di pensieri che si presentano. Durante la giornata fortunatamente abbiamo la nostra capacità di controllare anche tutti quei pensieri a cui noi non vogliamo pensare, ma durante la notte il nostro cervello, che è in modalità riposo, non ha questa capacità. Il tipico esempio è un problema a cui noi pensiamo di notte, ci appare sempre molto più grave rispetto a quello che ci appare lo stesso problema durante la giornata. Certo. La tecnica che funziona in maniera, direi, molto buona è quella del tempo dei pensieri. Quindi io fondamentalmente suggerisco ai pazienti, durante la giornata, dal mattino quando ci si alza fino a circa un'ora prima dell'orario in cui andiamo a letto, di utilizzare 10 minuti di tempo con un foglio e una penna e scrivere i nostri pensieri, non solo le cose che dobbiamo fare, perché quello spesso già tante persone lo fanno, ma proprio i nostri pensieri, le nostre preoccupazioni. Facciamo un esempio. Un pensiero che ad esempio lei vorrebbe scrivere adesso. Come farò ad affrontare quell'incontro con quella persona di cui forse potrei innamorarmi? Questi pensieri durante la giornata uno ci pensa e non ci pensa, durante la notte diventano il motivo di veglia notturna. Quindi scrivere questo pensiero permette durante la giornata di trovare delle soluzioni molto più efficaci di quelli che siamo capaci di trovare durante la notte. E in più io dico, il pensiero per me è come se fosse un elicottero, se io lo scrivo lo faccio atterrare e quindi durante la notte non mi si ripresenterà più e di conseguenza sarò molto più in grado di dormire bene. Quindi carta e penna e scrivete i vostri pensieri per abbandonarvi più serenamente tra le braccia di Morfeo. My Ed è vero come ci ha spiegato il professor Ferini Strambi, che è spesso ospite della nostra trasmissione quando parliamo di sonno, il sonno è vita. Come dormiamo, la posizione che assumiamo mentre dormiamo, per certi versi, può essere una cura. In linea con noi abbiamo il piacere di avere il dottor Carlo Gargiulo, che è tornato a trovarci, medico di famiglia. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno Nicoletta, buongiorno agli ascoltatori. Dottor Gargiulo, la posizione conta anche mentre dormiamo. Provare per credere. Perché, dottor Gargiulo? C'è uno studio molto interessante della Mayo Clinic. Esatto, c'è uno studio molto interessante che dimostra effettivamente come a seconda della posizione che noi assumiamo possiamo migliorare alcuni piccoli disagi, alcuni piccoli disturbi. Immaginiamo una persona che soffre magari di colite, di disturbi prevalentemente intestinali. Ecco, dormire a pancia sotto esercitando una compressione che facilita il rilascio di sostanze da parte dei nostri nervi, quindi questa compressione che riduce un po' la tensione e il dolore. Tutti sappiamo, i nostri bambini piccoli quando hanno il mal di pancia li mettiamo a pancia sotto e teniamo compresso un po' il loro addome, questo può aiutare un sonno migliore. Ancora, chi ha disturbi di colonna vertebrale, se dorme di fianco, sì, riesce a mantenere le curve fisiologiche della colonna vertebrale, quindi riesce a mantenere ed evitare che la pressione di un materasso magari troppo duro, di una rete troppo dura, possa raddrizzare, passatemi il termine, la colonna vertebrale e quindi creare ulteriori problemi. Non dimentichiamoci che noi una volta utilizzavamo quei materassi durissimi ortopedici, non se li ricorda sicuramente Nicoletta, certo, ortopedici, che erano un vero e proprio delirio, perché in realtà noi abbiamo capito che le curve vanno assecondate e non vanno contrastate con un materasso troppo duro. Poi c'è il russatore, non dimentichiamoci i russatori di notte hanno questa grossa problematica fino alle apnee notturne, ma già solo il russare che disturba il loro sonno. Ecco, noi raccomandavamo al russatore di dormire sempre su un fianco e mai supino, perché in questo modo si facilita la respirazione. Un trucchetto che facevamo utilizzare un po' di tempo fa era quello di cucire la pallina da tennis sulla giacca del pigiama, dietro naturalmente, questo impediva di dormire supini e portava a ruotarsi da un lato o dall'altro. E a dormire a pancia in su? A dormire a pancia in su è una posizione, se il materasso è comodo e confortevole, è una posizione buona perché consente di avere un mantenimento della fisiologica curvatura della colonna vertebrale e quindi va bene. Non dimentichiamoci poi che noi naturalmente tenderemo ad assumere una posizione la più comoda, la più confortevole, magari la posizione fetale con le gambe un pochino richiamate, oppure una posizione supina allungata. Insomma, di notte difficilmente stiamo fermi, per cui assumiamoci una posizione, ma tanto poi cambieremo sicuramente. Grazie dottor Gargiulo per essere stato con noi, l'aspettiamo presto. Intanto, grazie a voi, la penseremo. Un augurio di buona Pasqua a tutti. Grazie. Essere e benessere. Che benedetto sia pure chi inventò il sonno, cappa che copre tutti gli umani pensieri, cibo che toglie la fame, acqua che estingue la sete, fuoco per chi fugge il freddo, freddo che tempra l'ardore, moneta generale con cui tutto si compra, bilancia e peso che rende uguale il re al pastore e il saggio allo zotico. Miguel de Cervantes. Bene, l'autore del Don Chisciotte, anticipando decisamente i tempi, siamo sul finire del 1500, descrive in forma poetica le funzioni del sonno e di questo parleremo. Vi ricordo il nostro hashtag di oggi, dimmi come dormi, e voglio leggervi un tweet di Alberto: ultimamente mi sveglio con un braccio intorpidito. Professor Ferini Strambi, a volte è proprio il nostro, alcuni disturbi che avvertiamo, formicoli, piccoli dolori che ci svegliano, diventano talmente fastidiosi che interrompono il nostro sonno. Sì, una regola fondamentale, come abbiamo sentito anche prima da Gargiulo, è il fatto di muoversi durante la notte, perché durante la notte spesso cambiamo posizione corporea e questo lo facciamo proprio per cercare di permettere al nostro apparato muscolare, muscoloscheletrico, di cambiando posizione, di avere un conforto in più. Il problema è che se ad esempio non abbiamo questa capacità di girarsi e rigirarsi per motivi vari, pensiamo ad esempio magari al soggetto che la sera prima ha bevuto un po' di più e quindi tende magari così ad avere una maggior pigrizia in questi movimenti, allora è facile che stando magari piegati troppo in una certa posizione costringiamo ad esempio, riduciamo il flusso del sangue in quell'arto e poi ci svegliamo con il formicolio. Quindi queste sono cose che appunto possono succedere in situazioni particolari. Dottoressa Castronovo, se ci svegliamo e non riusciamo a prendere sonno, il consiglio di voi esperti è: non state a girarvi e rigirarvi nel letto, alzatevi e fate delle cose rilassanti e più piacevoli. Uscite dal letto, insomma. Uscite dal letto, allontanatevi dalla camera da letto, andate in un'altra stanza o un'altra stanza da letto o il soggiorno. fate qualcosa di tranquillizzante, rilassante, quindi leggere, ascoltare della musica che piace, tornare a letto soltanto... È che viene il nervoso quando uno poi si deve alzare alle 6:30 del mattino, sono le 3, non riesci ad addormentarti, sì. E vedi che sono le 3:30, le 4:15, le 4:10, uno dice io poi alle 6:30 devo andare, altro che rilassante. Dottoressa Castronove, vengono dei bei nervi. Però il problema è che stare comunque a letto svegli non serve a nulla. Andiamo ad Anna che ci chiama da Roma, buongiorno. Sì, buongiorno, salve. Io volevo un pochino vedere se c'è un rimedio con i vostri esperti per quanto riguarda questo sonno a singhiozzo che da un po' di anni, dalla menopausa in poi, purtroppo devo subire, e cioè i risvegli continui, diciamo anche a volte, non sempre, anche dopo un'ora mi sveglio e poi mi riaddormento, poi mi sveglio finché intorno alle 4, grosso modo alle 4, da un 2-3 anni l'orario è quello proprio in cui mi risveglio e non riesco più ad addormentarmi. Insomma, ha preso questa abitudine. La dottoressa Castronova diceva proprio questo: dobbiamo allenarci e ritornare a dormire bene. Dottoressa Castronovo. Allora, bisogna un attimo capire un po' meglio forse la storia dell'ascoltatrice. Sicuramente una cosa che può fare senza chiaramente conoscere bene la sua storia è diminuire un pochino il tempo che passa a letto. Spesso questi soggetti passano molto tempo a letto e dormono poco, ecco perché ci sono così tanti risvegli. Quindi diminuisca, signora, un pochino il tempo a letto. Se oggi sta a letto 8 ore, ne stia a letto 7, e quando si sveglia alle 4 del mattino si alzi dal letto, vada in soggiorno, faccia qualcosa e poi provi a tornare a letto dopo mezz'ora, tre quarti d'ora, provi a riaddormentarsi. E poi proverà magari a scriverci, a dirci come si sveglia al mattino, che risveglio ha. Guarda, generalmente la mattina è abbastanza nero il mio umore, perché comunque appena alzato è difficile. Mi alzo verso le 7 e generalmente non faccio quasi mai colazione, perché la mattina quando sono di fretta preferisco uscire e mangiare qualcosa verso le 10:30 del mattino. Sono 2 giorni che camminiamo 3 metri sopra il cielo. Sveglia alle 7, radio sveglia, e poi mi riaddormento. Il mio umore è discretamente buono. Allora, mi sveglio alle 7:30 del mattino, di solito sono di un umore standard, diciamo, non ho né picchi né bassi né alti, e non sono solito fare colazione a patto di un caffè. Svegliarsi la mattina con la voglia di parlare. Professor Ferini Strambi, il modo in cui ci svegliamo la mattina, il nostro umore mattutino racconta tante cose della qualità del nostro sonno, perché ci sono persone che pensano di dormire bene, in realtà al mattino si alzano che sono stanche o vanno avanti e comunque umore abbastanza bruttino, saltano per un non nulla e fanno fatica a concentrarsi, perché questo è un altro dettaglio importante che può ritrovare nella qualità del sonno una spiegazione. Certo, ma il problema sicuramente è la qualità del sonno, però non dimentichiamo una cosa fondamentale, che il nostro risveglio mattutino e la condizione in cui ci svegliamo spesso è anche la spia di quelle che sono le caratteristiche del nostro orologio biologico interno. Ne abbiamo già parlato a volte in altre occasioni, qui vorrei ripeterlo, perché non dimentichiamo che esistono le persone tra virgolette normali ed esistono invece i gufi, esistono le allodole, cioè i gufi che sono quelli che appunto vanno a letto molto tardi alla sera, ma che secondo il loro orologio biologico interno vorrebbero svegliarsi a mezzogiorno l'una, ed è chiaro che questi soggetti, se devono e sono costretti a svegliarsi alle 7, alle 7:30 del mattino, sicuramente non avranno un cervello efficiente, sicuramente non avranno voglia di far colazione, questa è l'altra spia. A volte mi chiedono, ma come fa uno a capire se è gufo? Io dico sempre, per capire se uno è gufo bisogna chiedergli cosa fai durante le vacanze, come dormi, qual è il tuo ritmo abituale durante le vacanze. E loro ti dicono che appunto vanno a letto alle 3 e si svegliano a mezzogiorno l'una e stanno benissimo durante la giornata. Seconda domanda, al mattino quando ti risvegli hai subito voglia di far colazione alle 7, 7:30 del mattino? i gufi o quelli che comunque hanno una tendenza ad essere gufi diranno: no, guarda, io a quell'ora lì proprio assolutamente non riesco a mangiare nulla. Tutto questo invece non succede nell'allodola, soggetto che va letto molto presto la sera e che si sveglia pimpante, fresca, benissimo al mattino alle 6-7 senza problemi e che ha voglia di fare un'abbondante colazione. Quindi questa è una cosa interessante perché possiamo abbinare quello che è il discorso del sonno con quella che è il nostro appetito mattutino e ci fa capire appunto di quale cronotipo facciamo, di quale categoria apparteniamo. Sveglia e caffè, barba e bidet, presto che perdo il tram. Per arrivare a timbrare il cartellino d'entrata alle 8:30 precise, Fantozzi, 16 anni fa, cominciò col mettere la sveglia alle 6:15. Oggi, a forza di esperimenti e perfezionamenti continui, è arrivato a metterla alle 7:51. Vale a dire al limite delle possibilità umane. Tutto è calcolato sul filo dei secondi. 5 secondi per riprendere conoscenza. 4 secondi per superare il quotidiano impatto con la vista. Riti quotidiani, piccoli riti quotidiani rendono piacevole la vita, riducono lo stress e possono anche aiutare a farci riposare meglio. Una sorta di cura antinsonnia. Ne parliamo con il professor Enrico Finzi, sociologo. Buongiorno professore. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Riti quotidiani per tenere sotto controllo il nervosismo, lo stress e quindi per abbandonarci con più piacere tra le braccia di Morfeo. Lei ha svolto una ricerca e arrivano proprio queste informazioni. Esattamente. Noi ogni anno facciamo per l'osservatorio di Yakult 1000 interviste a un campione rappresentativo dei nostri connazionali. Vengono fuori tre cose. La prima, che negli ultimi anni è straordinariamente cresciuto il livello di stress dichiarato. Eravamo a 7 milioni e 400 mila nostri connazionali che si dichiaravano terribilmente stressati, siamo a quasi 16 milioni. Secondo, è cresciuto moltissimo la percentuale degli italiani che dormono male, il tema di cui ci stiamo occupando, dal 30 al 40%. Terzo, gli italiani hanno capito che mettendo in atto alcune piccole, semplici, non costose strategie, piccole abitudini piacevoli, gradevoli riti quotidiani, è possibile diminuire lo stress e anche dormire meglio. Sono soluzioni assolutamente semplici, niente farmaci, ma se vuole che le racconti brevemente sono cinque. La prima strategia è quella di mangiare bene e in maniera sana, non solo bene, che è la vecchia nostra cultura collettiva, ma anche sano. Secondo elemento è quello di muoversi un po', nessuna grande attività fisica, fare 4 passi veloci per mezz'ora, 40 minuti al giorno, è esattamente quello che ci dicono i medici e che gli italiani in larga misura hanno incominciato a capire. Terzo, le relazioni interpersonali, perché buoni rapporti con gli altri, dal proprio amore ai propri figli, ai propri nipoti, agli amici, sono una delle migliori cure da sempre nella storia dell'umanità. E poi due, di cui una vecchia e una nuova. Una nuova è internet, che se usata in maniera non esorbitante allarga gli ambiti di esperienza, e l'altra vecchia ma ancora buona e sottovalutata dai mass media è leggere. Libri. Grazie professor Finzi. Essere e benessere. Sonno innocente, sonno che scioglie la matassa aggrovigliata degli affanni, sospensione della vita d'ogni giorno, lavacro alla dolente fatica, balsamo delle anime stanche, secondo piatto offerto dalla generosa natura, primo nutrimento del banchetto della vita. William Shakespeare. Professor Ferini Strambi, tempo di partenze. Vorrei dedicare qualche minuto ad un problema molto serio, che è una conseguenza diretta di un sonno disturbato e che può essere il colpo di sonno. Già il termine lo dice, colpo arriva all'improvviso, ma io vorrei proprio spendere qualche minuto, professore, per sensibilizzare gli ascoltatori che si mettono in auto per affrontare magari un lungo viaggio. attenzione. Attenzione a che cosa, professore? Possiamo dare qualche indicazione? Ma certo, ad esempio un errore che si fa spesso, soprattutto quando ci sono pochissimi giorni di vacanza, come ad esempio per il periodo pasquale, è quello magari di lavorare fino alle 5 del pomeriggio, le 6 del pomeriggio, poi mettersi in auto e affrontare un viaggio di magari 700-800 chilometri. Ecco, questo è assolutamente rischioso perché i nostri livelli di vigilanza, soprattutto quando siamo stanchi e soprattutto quando nelle ore serali arriva proprio la pressione del sonno, ecco, questo è molto rischioso. Allora, la cosa importante qual è? È quella di evitare appunto di mettersi alla guida se non si è almeno prima fatto un riposino anche abbastanza lungo e si è scaricata appunto questa esigenza di dormire. Quindi magari può anche andar bene viaggiare almeno parzialmente di notte, però prima bisogna aver dormito almeno qualche ora proprio per ridurre questa pressione. Attenzione, sì, professore, che molte persone dicono ma bevo un caffè, prendo un po' d'aria, faccio... non servono, no, ecco, vero? Quelle sono cose che assolutamente sono cose che sono piccoli palliativi, ma non sono la soluzione. Se siamo costretti comunque a viaggiare, diciamo magari appunto con stanchi, alle prime avvisaglie, cercare assolutamente di fermarsi e dormire magari anche soltanto 20 minuti, mezz'ora. Ma è molto più importante appunto quel 20 minuti, mezz'ora di riposo cercando di sonnecchiare un po' piuttosto che prendersi il caffè doppio. E quindi ecco, siamo proprio attenti, anche perché purtroppo il problema è che soprattutto i soggetti che già di per sé hanno una predisposizione a questi addormentamenti, mi riferisco soprattutto ai soggetti magari che hanno appunto il problema del russamento delle apnee e che magari sono quei soggetti sui 50-60 anni, uomini, sovrappeso, col collo un po' largo, ecco, questi sono già soggetti che di per sé hanno una tendenza ad addormentarsi, quindi figurarsi se si mettono alla guida già in una condizione magari un po' di privazione di sonno e di stanchezza. L'altra cosa importante, stiamo attenti ai farmaci che stiamo assumendo, perché ricordiamoci che farmaci ansiolitici, gli antidepressivi, ma anche i farmaci che sono gli antipertensivi, quelli che abbassano la pressione, possono creare problemi di facile addormentamento. E l'altra cosa importantissima, evitiamo assolutamente di bere alcolici, perché anche una semplice così birra o semplicemente un bicchiere di vino, in queste condizioni, se siamo in privazione di sonno, può aumentare il rischio di addormentamento. Abbiamo Isabella che ci chiama da Ferrara, buongiorno. Buongiorno, io volevo chiedere una cosa semplicissima che però non riesco a far capire a mio figlio. L'importanza di dormire, cioè l'importanza o se è una cosa, un'abitudine che non va bene, di dormire con due cuscini, quindi con la testa molto sollevata. Lui, è una cosa giusta o è una cosa? È una cosa sbagliata, dottoressa, ecco. Castronovo. Direi che dormire con due cuscini non è molto comodo, soprattutto per la nostra colonna cervicale. Se c'è un motivo particolare, ma sicuramente è molto meglio dormire con un cuscino, magari un po' più alto del solito se il ragazzo ha imparato a dormire così, ma io penso che un cuscino... La cosa difficile sarà convincere, e dottoressa Castronovo, lei è psicotherapeuta e lo sa bene, un ragazzo quindi di 15 anni. Ecco, sicuramente la mamma Isabella, però farà male molta non gli fatica a convincerlo. Sì, però male non gli può fare. Dottor Ferini Strambi, almeno lasciamogli i cuscini che vogliono, no? Ma sì, certo. Ecco, non dimentichiamoci che chiaramente non è il caso di questo giovane di 15 anni, ma purtroppo chi soffre un po' di cuore, chi ad esempio russa e fa le apnee, sa che dormire con due cuscini è molto meglio che dormire senza cuscini. Quindi, però penso che a 15 anni non abbia questi problemi. No, vero, ce lo auguriamo. Vogliamo concludere la trasmissione di oggi parlando di camomilla, la star delle erbe a cui tutti ricorrono per riposare bene. In linea con noi abbiamo il dottor Luca Voledo, naturopata. Buongiorno. Buongiorno. Dottore, forse è una fama non completamente meritata, però chi dice sonno pensa alla camomilla. È vero, è molto nota, è molto utilizzata, ma la camomilla non è una delle piante migliori per i disturbi del sonno, perché le ricerche hanno mostrato che l'attività sedativa sul sistema nervoso centrale della camomilla è molto modesta, quindi non è una delle piante da preferire. Quindi le diamo un 5,5, dai. Le diamo 5,5, però non è da buttare. Perché ci sono usi alternativi. Ci sono usi alternativi a camomilla magari non molto conosciuti, vorrei segnalarli agli ascoltatori di Essere Benessere. La camomilla è una delle piante migliori, quelle per l'uso domestico, per i disturbi digestivi di stomaco e intestino, per esempio, perché è un'attività antinfiammatoria delle mucose del digerente, combatte i crampi, gli spasmi, quindi si può utilizzare nei bruciori di stomaco, nell'acidità, nel reflusso gastroesofageo, nei dolori addominali, nei crampi, in tutte queste problematiche. Un altro uso è quello molto interessante per le donne nei disturbi del ciclo mestruale, nella dismenorrea, nei dolori, soprattutto di tipo spastico. Una camomilla può essere un ottimo toccasana. E infine un terzo uso è quello come impacco rilassante e decongestionante per gli occhi stanchi e arrossati, cosa che magari adesso può capitare anche con la primavera che si spera che arrivi quanto prima. Speriamo, dottor Avoledo. Invece per chi vuole riposare e utilizzare magari un'erbetta, quale consiglia se la camomilla ce l'ha messa un po' in discussione? Vi consiglio qualcosa di diverso anche come sapore, per provare un gusto nuovo, un tris di erbe, perché le erbe sedative funzionano molto meglio quando sono abbinate. Sì. Fatevi preparare dal vostro erborista di fiducia una tisana con fiori di arancio, che sono sedativi del sistema nervoso e anche del cuore. Sì. Fiori di tiglio, anche loro distensivi e rilassanti, utili anche nell'ansia che spesso sottende l'insonnia. E il terzo ingrediente è la passiflora, passiflora incarnata, sedativa, ansiolitica, una delle soluzioni più interessanti contro lo stress, l'ansia, che magari ci accompagnano tutta la giornata, ecco, e poi di notte facciamo fatica a sciogliere. Quindi arancio, tiglia, passiflora, voilà. Pronti e buona. Al posto della camomilla, che usiamo invece per altre cose. Grazie al dottor Avoledo. Grazie a voi. Professor Luigi Ferini Strambi, alla dottoressa Cinzia Castronovo. Grazie. È finito tutto così? L'appuntamento torna lunedì. Intanto buona Pasqua, tanti auguri, pensateci, venite a leggere il Daily Lab. Paolo Corleoni in regia alla parte tecnica, Laura Vanossi in redazione, anche loro vi fanno gli auguri. Per oggi è tutto, buona giornata. Essere e benessere.